piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. La ricerca di cervelli fuori dall'ordinario per me comincia domani. Da domani comincerò ad andare in giro per l'Italia, mi porterò dietro il mio cane da tartufo per cervelli straordinari, che è mio figlio Tommy, che è un cervello totalmente fuori dall'ordinario, essendo lui autistico, cosiddetto a basso funzionamento. Per me funziona molto bene. E questa iniziativa, di cui non sarò mai abbastanza grato al Sole 24 Ore, Radio 24, di appoggiarmela, devo dire, avrà per voi un felice riscontro. Giovedì farò ascoltare nuovamente quella che è la descrizione e la storia che sta dietro degli oggetti straordinari che mi stanno mandando gli ascoltatori. Ora, in realtà, l'istituire un'asta dello straordinario, andare in giro per l'Italia alla ricerca di oggetti straordinari, di persone singolari, è un po' il pretesto per ridare dignità di esistenza a tutto il pensiero ribelle. Noi abbiamo l'idea che la ribellione sia qualcosa che comunque metta in crisi, metta in precario equilibrio l'ordine costituito, tolga serenità, aggiunga ansia, crei dissoluzione, crei disastri, metta in crisi tutto ciò che sono le certezze sulle quali ogni giorno noi appoggiamo le nostre tiepide esistenze. La ribellione è tutt'altro, la ribellione è quel senso profondo di cambiamento che ha permesso all'umanità di evolversi. Se non ci fosse stato un cervello ribelle, oggi staremmo ancora a tremare dal freddo e a guardare inorridite le nostre ombre sulle caverne che ci ospitano. Quindi oggi cercheremo di capire come il principio della ribellione, la diversità, della singolarità, dell'orgoglio della propria equazione esistenziale, che non sempre collima con quella che normalmente dà sicurezza e serenità alla società, sia un valore potente anche nel campo delle aziende, anche nel campo del lavoro. Quello che vi chiedo questa mattina è di riflettere. Analizzate la vostra situazione, sia che voi siate dipendenti, manager, liberi professionisti, artigiani, disoccupati. Avrete comunque avuto un'esperienza di relazione con altri esseri umani legata a un'attività comune, un obiettivo, un lavoro, una professione. Ecco, quanto avete dovuto reprimere il vostro essere voi stessi? O quanto siete riusciti a dare un valore a quello che di voi stessi non vi sembrava essere perfettamente in linea con ciò che vi veniva richiesto? Io conosco bene quelli che sono i responsabili delle risorse umane, hanno dei modelli da seguire, quello è il modello, chi si adegua bene va avanti, chi non si adegua va segato. Ecco, è questo il principio su cui oggi può essere ancora basata l'economia. 800 24 00 24. Il manifesto dei cervelli ribelli. 1. L'orgoglio dei cervelli ribelli. I cervelli ribelli vedono la realtà con occhi diversi da chi si considera normale. Solo per pregiudizio sono assimilati al disordine o al disprezzo delle regole. 2. Senza cervelli ribelli, la realtà inghiotte se stessa. In assenza di un pensiero ribelle, la società si dibatte in un sistema chiuso. L'evoluzione si inibisce. Questo già altre volte ve l'ho proposto, è quello che considero il manifesto su cui è possibile articolare una nuova dimensione della società in tutte le sue declinazioni, quella del lavoro, delle relazioni, del tempo libero, della libera espressione dei propri desideri, basata sul fatto che un punto di vista differente è un punto di vista di cui bisogna tenere conto, che ha un valore. Non sempre, come siamo abituati nel fluire omogeneo dei nostri thread nei social network, si conquista consenso semplicemente accodandosi o impugnando quello che in quel momento viene considerato un valore, qualcosa che crea comunque attorno persone che hanno la stessa idea. Oggi anche presentare un pensiero dissidente, qualora la dissidenza non diventi un manierismo, può avere un valore. Oggi ho detto voglio confrontarmi sul piano del lavoro, sul piano della gestione delle aziende, sul piano dell'economia, e lo faccio con Daniela Oliboni. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Allora, Daniela Oliboni è una psicologa e consulente di direzione nei processi di cambiamento, quindi fa del coaching, è amministratrice unica della Hermes Consulting, che si occupa proprio di andare a seminare nelle aziende questo principio, perlomeno qualcosa di simile a quello che dico. Allora, Daniela Oliboni, a caldo, che impressione l'ha fatto l'idea che il cervello ribelle possa avere un valore? Nelle aziende ha un valore un cervello ribelle? Oggi hanno un grandissimo valore i cervelli ribelli perché stiamo attraversando un'epoca di straordinario cambiamento e il paradigma, diciamo, ordinario che ci deve vedere tutti obbedienti a fare gli obiettivi non è più perseguibile. Da diverso tempo ormai le persone danno segnali molto forti alle direzioni aziendali che il modello top down di direzione, dove le persone sono obbligate a seguire indicazioni di altri, non funziona più. Questo probabilmente perché ci sono dei fattori sociali che si stanno introducendo ormai da qualche anno, per esempio tutta la vita sui social che ci permette di partecipare, la scolarizzazione molto più alta che troviamo in media, per esempio in Italia il momento più alto di picco scolare che abbiamo mai avuto negli ultimi 100 anni. E questi elementi... Ma questo mi sorprende, che un momento di autocommiserazione, autoflagellazione, lei mi sta dando un dato che non avevamo considerato. È un dato importante, cioè siamo in un momento in cui le persone si sentono capaci di dare il loro contributo e di pensare di partecipare. Questo, diciamo, trasformazione sociale, c'è anche un altro elemento dentro che le ricerche ci confermano, che è il desiderio di benessere nel qui e ora. Quindi il paradiso può attendere, mentre 100 anni fa si diceva soffriamo ora, poi ci sarà il paradiso più avanti. Quindi lei mi sta dicendo che un sano spirito laico, al di là della regressione generale che si nota nella politica, nel pensare generale, ritorno ai vecchi valori, la famiglia tradizionale, i baci ai crocifissi, con pieno rispetto, che però non collimano tanto con l'idea del qui, adesso, subito, stiamo bene finché siamo in vita. Sì, stiamo bene finché siamo in vita e non accettiamo più di lavorare per chi non ci tratta bene e non accettiamo più di lavorare se non abbiamo uno scopo, una finalità. Soprattutto queste generazioni nuove che si chiamano i millennials, che ormai però hanno 38 anni. Sono già grandini. Sono grandini. Vicini quasi alla pensione. Ci stanno stimolando a cercare delle modalità organizzative più evolute e che rispecchino un po' di più l'anima e la cultura, elementi che oggi sono attive. Allora, Daniela Oliboni, da quello che mi dice lei mi sembra di intuire, non ci siamo parlati molto, che non voglio mai avere elementi di pregiudizio, che lei è una sorta di benedetta inseminatrice di principi sublimi nelle aziende, ma la realtà che io conosco, almeno delle aziende, è di segno diverso. Il conto economico, gli obiettivi, la necessità di ridurre il più possibile la forza lavoro, necessità comunque di fare profitto, e quanto il profitto, che diciamo è lo scopo lecito di un'azienda, può essere legato a questo rispetto della diversità, delle aspirazioni impalpabili del proprio personale, persone che lavorano per noi, quanto gli obiettivi di ordine sociale, di responsabilità sociale, che sono quasi un orpello, dobbiamo fare anche questa cosa, dai, dateci 4 disgraziati a cui dobbiamo dare un po' di soldi, quindi siamo a posto, ecco. E questa sua idea, che mi sembra molto utopistica e geniale da un certo punto di vista, ha possibilità di riscontro concreto in un tempo non proprio lunghissimo? Devo dire che la mia esperienza e dei miei colleghi, noi siamo 60 persone che facciamo Sisifo spesso portando pietre e vedendole rotolare di sotto, oggi sta trovando un modo diverso di essere ascoltata. Parlare di valori sociali, parlare di partecipazione in azienda, di responsabilità, di valore della differenza è il nostro lavoro da 20 anni. Ora trova un'accoglienza più forte perché si parla di sostenibilità. La sostenibilità di fatto è un elemento cruciale per andare nel futuro perché ci obbliga a pensarci connessi a tutti gli altri. Quindi il nostro lavoro da tanti anni è cercare di far comprendere alle aziende che oltre ad avere un senso per fare i risultati, che sono un fattore ovviamente importante per la sussistenza, quindi senza il risultato economico... È chiaro, l'azienda deve fare profitto, sennò che azienda è? Questo è giusto, il sacrosanto. Questo è giusto, ma l'azienda è inserita in un contesto sociale che ha molti stakeholder. Il primo stakeholder sono i suoi collaboratori, i suoi clienti, i portatori di interesse che partecipano ai capitali sociali, ma c'è un pianeta che appartiene a quella stessa azienda, c'è un universo che le appartiene, c'è un territorio che le appartiene. Quindi quando parliamo di ora sostenibilità e goal globali, va ben pensato a quale perimetro l'azienda appartiene e come può contribuire a un benessere collettivo. Quindi oggi troviamo un supporto da parte dell'ONU, da parte di una sensibilità anche degli investitori, completamente diverso da 20 anni fa, che ci dà speranza che questa evoluzione valoriale delle aziende possa veramente manifestarsi. Allora io, come sempre, ho il mio punto di osservazione, quello banalmente di un modesto giornalista che vede correre delle idee, dei pensieri, poi raccoglie ogni giorno con un pubblico che mediamente mi ascolta e reagisce, quelle che sono, diciamo, le impressioni viscerali rispetto alla vulgata dei giornali, dei convegni e via dicendo. Innanzitutto chiedo al pubblico di chiamare 800 24 00 24. Quale sollecitazione vi ha dato quello che stiamo dicendo? Ma la vostra sfera personale, individuale, del campo del vostro lavoro, trovate che realmente ci sia o si stia crescendo una sensibilità verso le problematiche che investono globalmente tutta l'umanità rispetto alla piccola parrocchietta, allo stretto circolo regionale, cittadino, condominiale in cui vi muovete? Dico questo perché queste teorie su un senso generale di responsabilità sociale passano attraverso grandi filoni di narrazione mediatica, Greta Thunberg tanto per cominciare, e vedo quelle che sono le reazioni, sono tutte cazzate, sono pippe mentali radical chic, sono cose di voi di sinistra, io non sono mai stato poi di sinistra, mai in vita mia, giuro, veramente. Insomma, ho letto autorevoli colleghi dire guarda che freddo che fa questi giorni, dov'è il riscaldamento globale, quando abbiamo statisticamente probabilmente uno degli inverni più caldi degli ultimi secoli, non so esattamente. Ecco, come si riesce a combattere questo senso di reazione generale, di passatismo, che applica una dimensione ideologica a quella che è una realtà oggettiva? Allora, quello che stavi dicendo rispetto a come viene trattato il tema della sostenibilità è anche disconosciuto. È assolutamente vero. Saranno influenzate anche le aziende, come chi viene a raccontare con la ragazzina vestita di giallo con le treccine, ma figurati. C'è ancora molta informazione da fare, soprattutto per non confondere sostenibilità con temperatura piuttosto che inquinamento solo degli oceani. È un po' difficile, ecco, perché è una cosa complessa. La sostenibilità è una cosa complessa che per me si può sintetizzare col fatto di sentirsi appartenere al mondo che ci circonda e non solo al nostro piccolo mondo. Quindi è un tema di aprire lo sguardo e rendersi conto delle implicazioni che attraverso i nostri comportamenti si originano sugli altri. Questo può riguardare ogni persona e può riguardare l'azienda che si muove in un certo contesto, in un certo territorio. Quindi va un po' oltre e c'è da combattere un po' questo modo superficiale di pensare alle cose e far porci veramente il piacere del dubbio e l'analisi più approfondita per comprendere questo fenomeno e non poterne più essere esclusi, ma deve partire da ciascuno di noi, per cui anche nelle aziende evitare di fare dei generalismi, ma cominciare a guardare come ciascuno può dare un contributo con un atteggiamento diverso a questo bene comune. Allora, Daniela Oliboni, noi ci fermiamo un istante, che dobbiamo dare la linea, riprendiamo proprio fra pochissimi secondi. La raccomandazione faccio che mi ascolta: cominciamo a calare quello che abbiamo detto con esempi concreti. La sostenibilità significa anche sostenere il peso, la difficoltà e l'elaborazione mentale di gestire persone che la vedono in modo diverso. Quanto tollerate voi il punto di vista differente dal vostro? Quanto avete una sorta di repulsione istintiva, di istintivo senso di segnare la diversità con persone che vi propongono sistemi di vita, di pensiero diversi dai vostri? Tutto comincia dall'accettare questo piccolo passaggio antropologico di capire che la diversità in realtà è un valore anche per noi, che con questa noi ci contaminiamo e acquisiamo qualcosa da chi ha qualcosa diverso da noi. Ci fermiamo un istante. Melog. I cervelli ribelli favoriscono l'innovazione. I cervelli ribelli sono quelli che sanno cogliere varianti imprevedibili rispetto a sistemi di pensiero stabilizzati. 4. L'umanità si evolve attraverso cervelli ribelli. L'affermarsi del cervello ribelle accelera il progresso, inducendo altri esseri umani a mettersi in discussione. 5. I cervelli ribelli non si mimetizzano nel pensiero vincente. I cervelli ribelli non cercano l'approvazione dell'opinione dominante e non temono di sfidare il dispregio collettivo. Oggi stiamo cercando una quadratura del cerchio abbastanza difficile, me ne rendo conto, ma ahimè è il rischio che si corre quando si propongono idee che non sempre sono così ampiamente condivise. Sono insieme a Daniela Oliboni, che è una psicologa, consulente di direzione di processi di cambiamento, amministratrice unica dell'Hermes Consulting. Sta cercando di portare nelle aziende, immagino con buoni risultati, perché è ben ripannucciata e caruccia, quindi evidentemente porta a casa la sua giornata, e quindi le aziende la stanno a sentire, quindi quello che diciamo non è totalmente privo di senso. Il concetto che probabilmente bisogna un po' cambiare tutti i paradigmi fondamentali. Questa è stata fondata la gestione dell'economia, la gestione del lavoro. Non sempre il profitto, che è sacrosanto e la divinità a cui ogni giorno ognuno deve dare il suo pensierino, è lo scopo fondamentale di un'azienda, anzi questo deve essere visto anche in ragione di un'evoluzione del mondo. Ci diceva Daniela Oliboni che al di là del nostro autoflagellamento nazionale, che è uno sport molto diffuso, in realtà c'è una scolarizzazione molto alta, c'è un'attesa di una qualità di vita molto ispirata al laico principio del benessere, della felicità diffusa, che fa parte comunque del patrimonio che ognuno di noi coltiva ogni giorno. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di darci degli esempi in cui nella loro esperienza di vita e l'esperienza di lavoro il valore della diversità, della singolarità, ha portato dei risultati. Maria Laura, buongiorno. Maria Laura è caduta, adesso vediamo se la riprendiamo. È un'imprenditrice, abbiamo sempre questo problema delle linee telefoniche, che spero quanto prima qualcuno provvederà al loro restauro. Quindi ritorno con Daniela Oliboni. Allora, il problema è essere ascoltati, il problema è avere degli esempi concreti in cui tutto questo punto di vista in realtà funziona. Faccio un esempio molto banale, così alluciniamo l'idea che noi vogliamo portare. In ogni ambiente di lavoro, dalla piccola azienda artigianale fino alla grande azienda, esiste individuato e spesso isolato il cervello ribelle. Molto spesso è semplicemente un rompicoglioni, è un troll, è uno che deve sempre fare il bastiano contrario, è uno con probabilmente anche qualche problema patologico, per cui deve essere sempre comunque quello che mette in discussione tutti, a cui non va bene nulla. Ecco, come si distingue lo scassacazzi fisiologico rispetto a quello che può portare un processo e uno stimolo di crescita in un'azienda? Beh, diciamo che lo scassacazzi probabilmente ha delle modalità di comunicazione, per cui quello che può trasmettere in termini di valore aggiunto nel cervello ribelle, come l'hai definito prima Gianluca, quindi di persona che vede un po' il futuro, che riesce a portartelo, che ti rompe un po' il paradigma, il cervello ribelle si fa capire, lo scassacazzi magari invece cerca più di rompere. Ha un'aura funesta intorno a sé, sì, di solito. Ha un'aura appassisce più funesta, ogni fiore che lui sfiora. E magari non porta così veramente valore aggiunto, cioè magari invece è più a portare un sistema conservativo che non un sistema innovativo. Il cervello ribelle di valore in azienda credo che oggi sia anche ricercato da molte aziende, perché sentono bisogno di discontinuità e di innovazione. Il punto è appunto che a volte questi cervelli ribelli fanno fatica a farsi sentire perché non sono visibili dai capi, magari sono dispersi all'interno dell'organizzazione e magari la loro voce non riesce a manifestarsi in modo così molto forte. Molto spesso il cervello ribelle ha proprio delle difficoltà sul piano della relazione, non detto sia così bravo, così capace a vendersi bene, proprio perché è cervello ribelle. Molte volte sprizzare genialità e singolarità non corrisponde a conoscere bene tutti gli ammortizzatori e fluidificatori sociali. Ecco, abbiamo beccato Maria Laura, buongiorno. Buongiorno. L'ascoltiamo. Io sono un imprenditore di una piccola azienda e mi occupo di importazione di prodotti alimentari e volevo dire che sia sull'aspetto della sostenibilità, il mio lavoro è specializzato per diciamo diretto all'industria alimentare, effettivamente invece il tema è diventato molto d'attualità. Le aziende sempre di più mi chiedono prodotti che contemporaneamente rispettino dei requisiti di sostenibilità ambientale, etica, con certificazioni di diverso genere. Ecco, questo quanto le costa però, Maria Laura, proprio dal punto di vista gretto della persona che poi le fa i conti e dice ma vada, esageri con questa cavolata, che ci importa di dare, che ne so, la tracciabilità di un prodotto, di dire che non c'è stato sfruttamento di manodopera per questo prodotto. Ecco, c'è qualcuno che le fa il discorso contrario? Cioè, queste sono tutte seghe mentali su cui in realtà noi rischiamo di rimetterci. Io credo che purtroppo sui grandi numeri resti ancora una maggioranza di prodotto o di richiesta che si colloca sul prezzo a tutti i costi, così come forse c'è una maggioranza di aziende che continua a sfruttare i propri dipendenti e che non rispetta. Però dall'altro lato esiste invece un numero sempre crescente di aziende che sono attente e la mia esperienza è positiva e diciamo anche la mia ragione d'essere, perché io mi sto interessando di questo settore qui. Allora, Daniele Oliboni, vuoi fare una domanda a Maria Laura, magari più specifica, dal punto di vista come se fosse diciamo un tuo interlocutore professionale? Tu ti accosti all'azienda Maria Laura, di cui non sappiamo nulla. Cosa li porteresti in più? Ma chiederei a Maria Laura se questo sistema di riflessione sulla sostenibilità lo ha pensato anche all'interno della sua azienda, perché dal mio punto di vista uno degli elementi fondamentali della sostenibilità parte proprio dall'interno, dalla gestione dei collaboratori e dall'utilizzo delle risorse che ci sono all'interno dell'azienda. Quindi, però mi sembra appunto che Maria Laura abbia già una sensibilità di questo genere. Maria Laura. Confermo. Nella mia azienda io ho privilegiato l'investimento delle risorse economiche intanto nella salubrità economica dell'azienda, quindi piuttosto che togliere ho sempre messo. E questo mi ha consentito di crescere in modo solido e poi il rapporto con i dipendenti è un rapporto, essendo una piccola azienda, il rapporto con i dipendenti è un rapporto umano, di rispetto delle diversità e delle caratteristiche. Allora, Maria Laura, perfetto questo, ma non vogliamo dare l'idea che tutto sia esattamente un grande idillio. Abbiamo al telefono anche Edi. Edi, buongiorno. Buongiorno Gianluca Nicoletti, sono Edi, buongiorno. Allora Edi, le posso chiedere gentilmente di aspettare solo un secondo, dobbiamo ahimè dare la linea, però mi interessa questa immediata presenza femminile di persone attente al mondo del lavoro. La sento fra un istante, diamo la linea e poi parliamo con lei. Allora, la figura che cerchiamo tiene l'azienda sempre in carreggiata. Sa quando fermarsi se ha un ostacolo davanti e sa leggere i segnali che si trova di fronte. Pensa di farcela? Ford Focus con frenata automatica, mantenimento corsia e riconoscimento segnali stradali. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive va tutto di serie. Ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. Melog. Sei. I cervelli ribelli sono un grimaldello dialettico. I cervelli ribelli si nutrono argomentando. A loro piace giocare con le visioni, con gli sguardi laterali, con l'intrepido esercizio del dubbio. 7. I cervelli ribelli sovrascrivono ogni propria certezza. Il cervello ribelle è ideologicamente fluido. Non si lascia imprigionare nella gabbia della coerenza dogmatica. 8. I cervelli ribelli coltivano relazioni atipiche. Il cervello ribelle non è una sociale, piuttosto non è istintivamente dotato di attitudine all'esercizio di strategie sociali. Allora, 800240024, ci eravamo interrotti con Edi. Edi, buongiorno. Buongiorno. Ti ascolto. Allora, io volevo dire questo, lavoro da 31 anni e faccio una professione d'aiuto, amo molto il mio lavoro. Quello che sta dicendo la dottoressa è la finalità, l'obiettivo a cui tutti dovremmo un po' mirare, visto che siamo nell'epoca della globalizzazione. Ma purtroppo io ho notato una grossa involuzione da quando c'è la crisi, nel senso che questa crisi per vari motivi, soprattutto per questi tagli che ci sono stati nel sociale, hanno incattivito le persone, per cui ci sono delle persone che stanno portando avanti il discorso della dottoressa, e però c'è purtroppo, secondo me, dall'angolazione da cui osservo io le cose, un numero crescente di persone che anche legittimamente è arrabbiato perché si vede togliere dei diritti per cui ha lavorato. Scusa se la interrompo, è sacrosanto, sì, quello che dice lei, sì, perché è l'impressione, è la prima, diciamo, domanda che avevo fatto io a Daniele Auliboni, dicendo sì, però in generale io vedo tutt'altro, vedo tagli sul sociale bestiali dal punto di vista istituzionale e governativo, si taglia sul sociale, io lo so perché sono tagli che sento sulla mia pelle, lo vedo, avendo un figlio disabile capisco che comincia a essere in secondo piano, non c'è più un'attenzione generale governativa verso il sociale, è scomparso anche da tutte le narrazioni politiche, non se ne parla più, si parla di legittima difesa, si parla di invasione e si parla di meno tasse, non si parla più del problema sociale, le categorie deboli non vengono più considerate. È anche vero che in un momento di crisi si sale sulla scialuppa e si salvi chi può. Sento altri due ascoltatori, poi sentiamo il commento di Daniela. Mirko, buongiorno. Sì, salve. Io ho un pensiero che va in dissenso rispetto a chi è intervenuto. E anzi, mi collego proprio all'ultimo intervento. Ribelle rispetto alla ribellione, non chiedo di meglio. No, ho un elogio al contrario del conservatorismo oppure dell'applicazione concreta della ribellione. Facciamo un esempio rispetto al lavoro. Qual è la massima ribellione? Quella di mettersi in proprio. Quindi questo discorso dell'elogio della ribellione applicato... Mica sempre, perché mettersi in proprio? Ma perché l'affermazione di sé, del proprio modo di pensare e presuppone evidentemente un conflitto con un sistema ordinario, con un sistema conservatore, con un sistema che viene imposto, un metodo... Beh, si apre un libero mercato, meglio. E quant'altro. Per cui la ribellione massima, secondo me, è quella di mettersi in proprio e di incentivare l'intraprendenza in tutte le cose. Ora ho fatto riferimento al lavoro, ma può essere anche... Ma lo vede come un valore negativo? Si apre un libero mercato? No, dico solo che è facile parlare, apprezzare l'atto di ribellione altrui, che però è in un contesto protetto. Prima abbiamo l'ascoltatrice prima ha parlato ad esempio del sociale e delle forme di assistenza. È facile parlare di un contesto di ribellione in un contesto protetto, con ammortizzatori, con la garanzia ad esempio del pagamento e l'accollo del rischio in capo all'imprenditore oppure al titolare dell'azienda o responsabile, perché quella è una ribellione praticamente senza conseguenze sostanzialmente. Mirko, le posso dare esperienza personale, sì, che nelle aziende, se sei ribelle e non ti allinei, vieni messo alla porta prima o poi, non è che si rimane in eterno. Una persona ha una capacità, che prima o dopo ottiene i frutti della propria capacità, ecco, sia lavorando in gruppo, sia lavorando... Ma quello stiamo di far capire, Mirko, è che molte volte proprio chi gestisce le risorse umane non ha interesse nel cogliere elementi rivoluzionari di diversità e di capacità, va avanti in un modello stereotipato che dà sicurezza, è un'equazione, è come la RAI, che fa sempre lo stesso programma perché sa che almeno quello ti dà un bacino di utenza uguale e comunque sostenibile, comunque che ti dà sicurezza. Ci fermiamo con Mirko. Ludovico, poi rispondiamo a tutti insieme. Intanto Daniela Oliboni si segnerà i punti. Ludovico, buongiorno. Buongiorno, io sono un cervello ribelle, sono un inventore, ho più di 80 invenzioni su energie rinnovabili, risparmio energetico, mobilità sostenibile, ho 3 brevetti italiani, un brevetto internazionale già concesso in Europa e stesso anche Stati Uniti e Canada. Ho vinto il bando Global Startup Program dell'ICE, sono stato 3 mesi negli Stati Uniti, dove ho esposto le mie idee. E loro mi hanno detto: ma cosa ti fai ancora in Italia? Sì, io sono in Italia, passo per un inventore pazzo, vuole cambiare il mondo, un inventore folle. Ho detto: guarda che qui i folli cambiano il mondo. E l'Italia in questo momento non sta facendo nulla per me e per tutti quelli che hanno belle idee, belle invenzioni che vogliono fare. Ecco, allora Ludovico, partiamo subito da te, mi sembra l'esempio fondamentale. Ludovico ha i 4/4 in nobilità per essere un cervello ribelle, non scassacazzi ma produttivo. Ha avuto riconoscimenti internazionali, avrebbe in mano alcune formule, ma nessuno se lo calcola. O gli manca una grande agenzia di comunicazione, o gli manca proprio l'approccio verso la sensibilità delle aziende. Cosa diresti, Daniele Oliboni, proprio partendo dall'ultimo esempio? Ma vorrei poter parlare con Ludovico per capire come, qui in Italia ha veicolato queste invenzioni, perché esistono dei gruppi di lavoro, sono spesso sponsorizzati dalle grandi aziende, che invece creano proprio l'occasione di incontro fra l'inventore e gli investitori. Quindi nella mia esperienza ci sono tantissime startup attive oggi che vengono proprio aiutate a nascere in questi momenti, in questi circoli, dove le persone possono presentare i loro progetti e trovare sponsorizzazione. Quindi non so se a Ludovico... Quindi, il tuo non è un facile ottimismo. Se Ludovico gli manca un'interfaccia virtuosa, sì, nei confronti della gente. Forse ha bisogno di qualche indicazione. Poi ti passiamo il telefono di Ludovico. Ludovico, oggi è il tuo giorno fortunato. Passeremo il tuo riferimento a Daniela Oliboni, che vediamo, poi valuterà se il tuo approccio con l'azienda è stato quello giusto. Rispetto alle altre telefonate. Ma mi tocca molto il tema del sociale, che dicevi tu per esperienza tua familiare, e quello di Edi come operatore. Credo che sia un tema a parte che chiederebbe, più che l'impiego di cervelli ribelli, una seria presa in carico da parte dello Stato di questo tema, perché situazioni molto gravi non trovano supporto oggi, e quindi per gli operatori di questo settore c'è una doppia frustrazione, perché stanno vicariando tutto quello che non fa lo Stato con il proprio impegno personale, per cui io li ringrazierei veramente di cuore, perché sono tanti, e se riusciamo a gestire molte situazioni difficili proprio grazie al loro amore per quello che fanno e per questa missione della loro anima. Questo ovviamente per chi ci crede e non si sente riconosciuto nel tempo porta rabbia, porta frustrazione. Credo che ci dobbiamo dare un messaggio forte di rete tra tutti noi che lavoriamo per cambiare un po' il mondo verso valori umani migliori, e continuare a crederci. Allora, il tempo è finito, Nelia Oliboni. Ricordo chi ci ascolta che alla fine il senso profondo di tutta questa operazione che stiamo facendo anche con Radio 24, che è l'asta dei cervelli ribelli, è proprio finalizzata a dare una possibilità di inserimento sia lavorativo che di inclusione sociale a persone che hanno cervelli ribelli. Quindi il senso di questa trasmissione è propedeutico a una grande operazione che ci cremo di fare col territorio, sul territorio, anche e soprattutto con la grande collaborazione di Radio 24. Alla prossima.